Questo è Visionari, il cinema su Radio Onda Rossa, il giovedì dalle 14 alle 15, ma spesso e volentieri anche dalle 13.30 subito dopo il giornale radio, in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio, ondarossa.info. Sull'home page c'è Ascolta la diretta e tutte le informazioni sulla scaletta di oggi e sulla trasmissione le trovate sul sito della radio, sempre sull'home page, colonna centrale alla voce trasmissioni Visionari, pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Il primo ospite della puntata di oggi è Francesco Di Martino, che però non è solo, vero? Ciao Federico. Ciao. Sì, non sono solo, perché siamo tutti e tre qui della direzione artistica. Sono Francesco, poi c'è Licia. Ciao. E Giuseppe. Ciao. Benissimo. Okay, vi salutano. La direzione artistica è quella di Documentaria, Festival del Cinema Documentario a Noto in Sicilia dal 13 al 17 dicembre, quindi è già iniziato ieri. Intanto ti chiedo un primo bilancio dell'apertura. Un'apertura da bomba, come abbiamo definito ieri, perché abbiamo cominciato con Grifi, con questa retrospettiva su Alberto Grifi, che tu conosci benissimo. Certo. E c'è stata una partecipazione pazzesca, cioè la prima serata possiamo dire che c'è stato molta gente, una reazione anche positiva di fronte ai film che abbiamo visto, e soprattutto gli ospiti, perché c'era Danilo Monte, che è un regista anche lui, che ha fatto delle cose con Grifi, ha avuto la fortuna, diciamo, di incontrarlo, di conoscerlo. C'era Antonio Veneziano di Candida TV, e poi tutto questo è stato, diciamo, possibile grazie a un altro sostenitore, insomma, che ha conosciuto Grifi, che è Nicky Ottimo Fiore, che è un nostro collega che ha curato tutta la retrospettiva. Bene, allora intanto diciamo anche come è nata Documentaria e come si è sviluppata poi nel corso delle edizioni. Allora, considera che noi siamo nati 5 anni fa e siamo nati proprio con quella esigenza di vedere documentari, quindi ci siamo guardati e abbiamo detto: ma è difficile trovare il documentario in Italia, come tu ben sai, almeno fino a 5 anni fa era così, ora è un po' più facile. E allora ci siamo inventati questa cosa, prima una rassegna, principalmente per avere documentari per noi stessi, vederli e poi pian piano riuscire anche a proiettarli, no? E quindi da questa esigenza quasi personali siamo riusciti poi a trasformare questa rassegna, che prima si chiamava Rassegna Documentaristi Siciliani, che poi abbiamo trasformato in un festival, perché abbiamo sentito l'esigenza di fare un evento più grosso e quindi di riuscire, insomma, a trasformare una piccola rassegna in una cosa più grande, come poi è successo di fatto. Senti Francesco, occhi per te, insomma, visto che siete in tre all'ascolto e al telefono, come è strutturato il festival? Ma allora, oltre alla retrospettiva di Grifi, noi siamo sempre molto attenti a quella che è la formazione. Infatti anche quest'anno abbiamo fatto 3 workshop più un seminario di approfondimento. I 3 workshop sono quello di regia tenuto da Antonio Martino, che tra l'altro ci fa molto piacere averlo, perché è stato il vincitore della scorsa edizione, che tiene il workshop di regia. Poi ce n'è un altro sul montaggio creativo, che è tenuto da Corrado Iuara, e un terzo di Alessandro Aiello sul documentario falso, che appunto si chiama Fake. E poi c'è il un quarto workshop, e poi in realtà è un seminario che è sulla distribuzione dal basso. Questa è un'altra realtà che noi sosteniamo e ne parliamo sempre in ogni nostra edizione, perché oltre ad essere nostri amici questo tipo di produzione ci interessa particolarmente, perché ne facciamo sia uso noi che anche molti altri registi italiani. Diciamo che si ricollega anche l'idea di Documentare, che è quella di riuscire a portare il cinema documentario a diffonderlo molto di più, perché purtroppo, soprattutto dove viviamo noi, i film che appartengono a questo genere sono poco diffusi. Quindi vogliamo sia diffondere prodotti che hanno anche delle grosse produzioni e fanno parte appunto di questo genere, ma anche ci sono molti prodotti, molti film che sono validissimi, che purtroppo, non avendo una produzione, ricorrono sempre ai crowdfunding. E oggi anche chi prima in passato aveva una produzione proprio per avere una libertà creativa, si affida a quelli che sono i sostenitori, sono proprio i cosiddetti fan stessi. Questo vediamo che oggi anche nella musica, che oggi chi vuole produrre un album lontano da ogni vincolo si affida appunto a chi lo segue. Allora, aggiungo un'altra cosa, sì. Io scusami, Federico, il festival poi c'è ovviamente la sezione fuori concorso, dove ci sono 8 film che cominceranno proprio oggi, tra l'altro, le proiezioni, e poi ci sono 6 film in concorso che concorrono per il miglior film, che cominceranno invece venerdì, e sarà venerdì, sabato e domenica al Teatro Tina di Lorenzo di Noto. Benissimo. Allora, in chiusura, dalla terza voce ci facciamo lasciare tutti i riferimenti web per saperne di più sulla rassegna e sugli orari di programmazione e su tutte le informazioni. Sì, ti rilascio io. Intanto trovate tutto il programma sul nostro sito, che è www.documentarianoto.it. Da lì potete accedere a tutti i nostri social, che sono Facebook, Twitter e Instagram. Soprattutto su Instagram metteremo contenuti che sono diversi da Facebook, quindi vi consigliamo di seguirli entrambi, ecco. Appunto, come diceva Francesco, oggi già iniziamo subito con i film in proiezione, quindi alle 17. Siamo ai passi di Palazzo Ducezio, che è proprio un edificio alle spalle del municipio di Noto. Continuiamo alle 8:30 con la retrospettiva, la seconda e ultima serata di retrospettiva su Alberto Crisi, e poi domani, insomma, continueremo con sempre le proiezioni fuori concorso, e iniziamo la prima proprio del festival al Teatro Tina di Lorenzo. Bene, allora un abbraccio, un in bocca al lupo, un buon proseguimento. Grazie Federico. Buon ciao, pomeriggio. Alla prossima, ciao. Alla prossima, ciao. Francesco Di Martino e tutta la direzione artistica di Documentaria, Festival del Cinema Documentario, che è in svolgimento in Sicilia, a Noto, da ieri 13 fino al 17 dicembre. Manuele Cecconello, regista del documentario Sorgenti del Burro, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa, Manuele. Ciao e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, continua il tuo percorso all'interno del ritratto della montagna a livello umano, sociale, economico e politico. Questo è un nuovo lavoro, ce ne parli un po', Manuele? Il progetto è nato insieme ad Andrea Taglier, che è un fotografo naturalista e che mi ha traghettato in questo minuscolo anfratto di una valle del Biellese in Piemonte, dove c'è ancora una famiglia, non è l'unica ma è una delle pochissime ultime sopravvissute, che in estate a quasi 1500 metri con una mandria di mucche fa una caseificazione artigianale e in più fa questo burro dalle caratteristiche straordinarie, tant'è che è anche uno dei presidi del burro a latte crudo, si dice, di Slow Food. Ecco, e questo sarebbe il tema del film. E poi che cosa è successo, no? Che io e Taglier, sapendo che comunque è un argomento quello molto dibattuto, e non solo per gli addetti ai lavori, chiunque voglia informarsi o vedere film o libri o quant'altro su questi argomenti, nell'arco alpino si pubblica molto, perché appunto sono produzioni resistenti, hanno caratteristiche uniche, c'era già molto. E allora abbiamo detto, lasciamo perdere l'aspetto, chiamiamolo ortodosso, documentale, e cerchiamo di restituire la nostra esperienza di persone che esplorano quei luoghi, che vedono quei gesti e che stanno lì qualche giorno. E allora ne è sortito quello che per noi è un progetto sperimentale in sostanza. Fotografie, video e film di 40 minuti sono fatti con questo atteggiamento, dove l'aspetto di documentazione è in subordine, mentre quello che viene ad emergere è questa sensazione, questo immergersi in quel mondo, quell'evocare per suoni e immagini, perché il film non è parlato, quel tipo di atmosfera che produce questo prodotto unico attraverso le materie prime, quindi latte, ma anche acqua fredda che serve alla lavorazione, pascoli, erba, letame anche, che nel nostro mondo sono equivalenti, sono tutte materie prime, come una tabella prima degli elementi che produce nutrimento per gli esseri umani. Sì. E allora queste sono immagini che hanno un aspetto, chiamiamolo spirituale, e non vado oltre, lascio poi agli spettatori decidere, è un aspetto emotivo, e che è anche il modo in cui un autore, noi autori, diciamo la nostra sul bisogno di riconnessione alla natura e a un certo modo di produzione naturale del cibo sostenibile, come dire, in modo ante litteram, ma soprattutto secondo un'armonia che la produzione attuale di alimenti ha completamente travisato, dimenticato. Ecco, Manuele, mi parlavi di alcune famiglie che resistono in questo senso rispetto alla vita e alla produzione di beni alimentari. In questo caso volevo chiederti com'è la condizione rispetto alla popolazione di quelle località e al reddito, alla produzione di reddito e le condizioni di vita. Dunque, si tratta di alpeggi, dunque le zone alpine di cui sto parlando hanno la caratteristica di avere ancora alpeggi, quindi baite, edifici adatti a stare lì in estate, a quell'altezza dove il pascolo, l'erba, assume queste caratteristiche uniche. Allora c'è cosparso per l'arco alpino, soprattutto in certe zone, io parlo del Biellese perché ho frequentato e ho vissuto lì, ma insomma potrebbe essere valido per tante altre zone fino alle Dolomiti, insomma, la sopravvivenza di queste case, queste baite estive, dove non esiste il concetto di turismo, bensì quello di famiglie che per tradizione familiare, per appartenenza solidissima alla terra, alla propria zona, seguono questo ritmo: in inverno con la cascina più in pianura, in estate con tutte le mucche al pascolo, dove si producono formaggi e burro. Questo non è propriamente, non fa proprio quadrare i conti, ecco. Cioè sì, sono produzioni, sì, di nicchia, stupefacenti dal punto di vista organolettico, ma che è chiaro, come rara produzione, come basso impatto quantitativo, non possono avere dimensioni di reddito adeguate. Dunque ci sono altri fattori che concorrono a mantenere questa resistenza casearia, si dice, e che di fatto vede questi luoghi, questi insediamenti, queste famiglie come gli unici manutentori veri della montagna, coloro che la abitano, la vivono e vi traggono reddito in una maniera del tutto armonica. Sì. Dunque è un equilibrio molto delicato. Sì, sì, sì, sì. Manuele, in chiusura volevo chiederti se c'è una pagina Facebook, un sito internet dedicato sia al documentario che alla tua attività in generale. La mia attività è Prospettiva Nevsky, come la famosa strada San Pietroburgo, .it. La pagina Facebook di Sorgenti del Burro è appunto Sorgenti del Burro, dove si può trovare tutte le informazioni, anche per reperire il libro che contiene anche il film, un pacchetto che un editore appunto di Biella ha voluto pubblicare, e quant'altra informazione su questa piccola avventura che abbiamo cercato appunto di tradurre in termini universali. Dunque non è proprio una dimensione campanilistica, ma è il trarre come autore, il nostro dovere è trarre l'universale dal particolare. Benissimo, allora è sempre un piacere, un abbraccio e alla prossima. Grazie a voi, a te, a presto. Ciao. Ciao, ciao. Manuele Cecconello, regista del documentario Sorgenti del Burro. Con Enrico Maisto, regista del documentario La Convocazione. Enrico, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, buongiorno, grazie. Allora, mi hanno segnalato il tuo lavoro perché ha ricevuto un premio al Festival dei Popoli di Firenze. Ce ne parli un po', Enrico? Sì, volentieri. Il film racconta della giornata che vivono questi 60 cittadini che vengono estratti a sorte da un sistema informatico e catapultati nell'aula della Corte d'Assise

di quel tipo, come quella di giudicare la vita di un'altra persona, perché le pene che sono in ballo sono pene molto alte, si parla anche dell'ergastolo, si parla di insomma quantitativi di pena piuttosto ingenti, per cui ecco, la responsabilità è grande, e mettere delle persone di fronte alla necessità di prendere una posizione rispetto a questo, di immaginarsi che cosa può voler dire essere giudice, questo sia alla fine per loro qualcosa che li cambia, che li arricchisce, quindi, insomma, c'è questa sorta di metamorfosi, ecco, che non probabilmente non mi aspettavo di trovare. Un riconoscimento all'interno del Festival dei Popoli, e ora che ne sarà del tuo lavoro? Allora, il film è stato presentato in concorso anche a Lipa, ad Amsterdam, concorso di mediometraggi, e poi al Filmmaker Festival di Milano, e dalla metà di gennaio in poi uscirà con Arch Film, che distribuisce in Italia in alcune sale. Alcune sale nei principali capoluoghi, diciamo, avrà una distribuzione, poi si è prodotto da Rai Cinema, e sarà qualcosa anche delle nostre reti televisive. Ma questo, ti sento un po' lontano. Mi senti? Ecco, adesso no, sì. Dove sei arrivato? No, dicevo, insomma, che non so dove sei arrivato. Comunque, no, no, ti sentivo, ma molto basso. Ok. No, insomma, il film uscirà dalla seconda metà di gennaio con Arch Film, che lo distribuisce in alcuni capoluoghi italiani, e poi, insomma, vedremo come va anche con Fonte della Rai, che è coproduttrice del film. Quindi, insomma, probabilmente ci sarà un passaggio televisivo, anche se non sono idea di come e quando. Senti, ci lasci a questo proposito dei riferimenti internet, se c'è un sito internet, una pagina Facebook? C'è una pagina Facebook, la convocazione, no, il sito non c'è, però, insomma, sulla pagina Facebook. Benissimo. Tutti gli aggiornamenti possibili saranno rintracciabili, no, insomma, anche sul sito di Arch Film e Lingshot Film, che cura le vendite internazionali, insomma. Benissimo. La parte distributiva. Enrico, allora un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie il lupo, grazie. Ciao. Grazie a voi, ciao, buona giornata. Ciao. Anche a te. Enrico Maisto, regista del documentario La Convocazione. Fabio Martina, regista del film L'Assoluto Presente, in uscita in sala domani, venerdì 15 dicembre. Fabio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie a te, Federico, e grazie a tutti i radioascoltatori. Buongiorno a tutti. Allora, ci racconti un po' la storia di questo film, di cosa si parla? La storia dell'Assoluto Presente è la storia di vabbè, innanzitutto è tratto da fatti di cronaca, perché nel 2007-2008 ho letto molti articoli, diciamo, che raccontavano questa storia di ragazzi che commettevano violenza gratuita, e senza nessun motivo, senza nessun apparente motivo. Questi, diciamo, articoli mi avevano scioccato, e avevo deciso in qualche modo che andava raccontato questo, quello che stava accadendo, che in realtà non era semplicemente una cosa legata al singolo fatto di cronaca, ma era qualcosa che appunto era l'assoluto presente, che è stato definito poi in un'intervista dal filosofo Galimberti quando l'abbiamo incontrato, perché abbiamo ottenuto un'intervista durante questo processo di lavorazione durato 10 anni, siamo riusciti a tenere un'intervista con Galimberti, e in questa ora che ci ha dedicato Galimberti diceva: l'assoluto presente è la condizione in cui vivono i giovani d'oggi, dove non esiste, non vivono il passato, cioè vivono il presente ma non il passato e il futuro. A loro il passato e il futuro non interessa minimamente, quindi vivono in una condizione di precarietà e di insignificanza sociale. Questo era quello che diceva Galimberti in una situazione, diciamo, in una, come dire, in un'estremizzazione di quello che secondo me era la situazione vera e reale, però in qualche modo ci aiutava a definire esattamente quello che volevamo raccontare. Per cui abbiamo deciso di chiamare il film L'Assoluto Presente. Il film racconta la storia di 3 ragazzi milanesi, di una Milano non emarginata, ma di una Milano di centro città, che durante una sera diciamo tra virgolette, di festeggiamenti, decidono di scendere dall'auto e di pestare una persona in maniera casuale. Cioè, quindi sembra che non ci sia alcuna relazione tra l'azione e la vita dei personaggi. In realtà il film poi è diviso in vari episodi molto frammentari che cercano di ricostruire il momento precedente e successivo alla violenza dal punto di vista di noi tre ragazzi, per cui diciamo cerchiamo di entrare nelle loro vite, nelle loro coscienze, per dare una motivazione, un senso a questa azione. Questo in sintesi diciamo sì, è la storia del film. È un thriller, diciamo possiamo definirlo thriller esistenziale, se dobbiamo connotarlo, e appunto è un film che da un certo punto di vista diciamo come dire, senti tensione, provoca tensione, ma nello stesso tempo alla fine del film rifletti, porta una riflessione su sui tempi che stiamo vivendo, quindi su questa condizione esistenziale che si chiama l'assoluto presente, che non è una sola una cosa legata ai ragazzi e ai giovani, ma è una cosa che noi stessi, noi tutti, anche adulti, viviamo quotidianamente. È questa condizione di vivere in maniera negativa il presente e non proiettarci verso il futuro e né avere una memoria del passato. Ecco Fabio, proprio a questo proposito, essendo un lavoro basato che parte dalla cronaca, volevo sapere quanto c'è di oggettivo e quindi relativo ai fatti, ai vari fatti che si sono succeduti, e quanto c'è di vostro? Ma la cronaca è stato lo spunto iniziale per costruire il film, è stato diciamo quello che lo spunto per iniziare a scrivere la sceneggiatura. In realtà noi volevamo entrare nelle coscienze di questi tre personaggi, per cui il lavoro stesso che è stato fatto, che è durato vari anni, due anni con gli attori, voleva appunto come dire, entrare nel mondo interiore dei personaggi per cercare di svelare le loro motivazioni più profonde rispetto a questo a questa azione. Per cui in realtà sì, noi abbiamo preso spunto, abbiamo scritto, però ci siamo anche diciamo distanziati dal dato reale. Sì. C'è da dire che poi a posteriori, durante un'intervista che mi è stata fatta al Corriere della Sera, ho scoperto che io a 20 anni avevo subito un episodio di questo tipo, un episodio di violenza gratuita, e in qualche modo avevo qualcosa da spiare, qualcosa da, come dire, da tirare fuori, per cui diciamo solo a posteriori ho capito questa cosa. Sì, sì, sì. Senti, com'è la tua visione del fenomeno? La visione del fenomeno del che dici della violenza giovanile? Sì, gratuita? Di questo che racconti nel film, insomma. Beh, diciamo il film poi racconta esattamente in qualche modo come la visione. Sicuramente il fatto che si vive in un'epoca di svalori, che per molto tempo, appunto per 10 anni, sono prevalsi dei disvalori che non erano quelli fondanti di una società, come l'amicizia, come appunto l'amore, tra virgolette, no? Tra le persone, ma in realtà per un certo periodo è prevalso il disvalore, che era quello appunto di valori come, non so, il fare il business, il fare ricchezza, il arricchirsi, la competizione, sì, l'invidia, per cui diciamo che ci siamo trovati in un momento storico che io ho definito in quegli anni in cui il film è stato ideato, nel 2007-2008, in cui secondo me c'era molto di questo, mm-hmm. Che poi avevo visto in altri film. Per esempio io mi sono ispirato comunque a film come quelli di Haneke, nel Nastro Bianco, sì. Haneke racconta il momento precedente allo scoppio della prima guerra mondiale dal punto di vista di bambini. I bambini erano diventati cattivi e descrive come dei personaggi molto cattivi. Forse appunto non era colpa loro, non era la cattiveria, cioè, insita nei bambini, ma era una cattiveria che derivava da una certa atmosfera che si era respirata e vissuta. Da una cattiveria, esatto, vissuta. Infatti questo è poi il senso stesso del mio film, cioè non è un atto di accusa, ma è solo una fotografia di quello che è accaduto. Fabio, le prime reazioni alle proiezioni? Le prime reazioni sono state molto positive. In realtà io ho avuto abbiamo fatto due proiezioni allo Spazio Oberdan, e diciamo il film non lascia indifferenti, e questo significa che non ci sono stati grossi applausi all'inizio, ma ci sono state molte domande dopo, per cui il cinema è sempre stato pieno nelle due occasioni, e le persone sono state molto stimolate a fare domande, perché probabilmente appunto tocca la nostra vita. Io ho voluto fare un film che entrasse nella vita dello spettatore, non che fosse raccontare una realtà emarginata, ma raccontare una realtà che ci riguardava intimamente, per poter portare una riflessione al giorno dopo, cioè non una riflessione all'oggi. Cioè, io non volevo che la gente uscisse dal cinema che fosse contenta e felice, ma che invece in realtà portasse la riflessione al giorno successivo, cosa che mi è capitata, perché ho ricevuto molte email e molti messaggi attraverso Facebook di persone, spettatori, che poi mi hanno agganciato e mi hanno chiesto, mi hanno fatto i complimenti e mi hanno fatto delle domande anche via Facebook. Quindi questo vuol dire che ha girato, ha stimolato qualcosa. Il film, ecco, va un po', tra virgolette, digerito, però è una digestione che viene il giorno successivo. Ma questo secondo me è il senso del stesso dell'arte oggi, cioè l'arte deve fare questa cosa, deve portare una riflessione che vada al di là dell'evento di proiezione o dell'evento appunto di visione, se si tratta di una mostra, di pittura o di scultura. Sì. Senti, che tipo di distribuzione avete scelto? No, la distribuzione in realtà non l'abbiamo scelta, la distribuzione è entrata, perché dopo il successo all'Oberdan, diciamo, il direttore della Cineteca, Matteo Pavesi, ha visto il film, gli è piaciuto moltissimo e gli è piaciuta la reazione che ha avuto il pubblico, e ha deciso di programmarlo 14 giorni all'Oberdan a Milano. Per cui questa agenzia di comunicazione, che poi in realtà fa appunto distribuzione di cinema d'autore, ha deciso di prendere il film e di farlo suo e quindi distribuirlo. Per cui adesso lo scrittoio, si chiama in questa fattispecie, sì. Lo scrittoio sta distribuendo il film in tutta Italia, credo che a gennaio, adesso ci stiamo organizzando per portarlo poi in tutta Italia, però è tutto molto, come si dice, tra virgolette, casuale, per cui le cose stanno accadendo. Fortunatamente il film in qualche modo dice qualcosa e sta andando in giro, insomma, sta facendosi la sua strada, fortunatamente, perché il bambino è adulto e il papà non ne può più. Senti, c'è un sito internet, una pagina Facebook di riferimento? Sì, c'è una pagina Facebook, è l'assoluto presente, senza l'apostrofo, l'assoluto presente, oppure con l'apostrofo nella ricerca, appunto, sul campo, fate ricerca all'assoluto presente e si trova la pagina Facebook, sì. E appunto arriveremo in tutta Italia, aspettateci, stiamo arrivando. Allora, un abbraccio Fabio, un in bocca al lupo. Grazie tante per l'attenzione. Alla grazie prossima. A tutti e buon pomeriggio, venite a vedere il nostro film. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Fabio Martina, regista del film L'assoluto presente, in uscita in sala domani, venerdì 15 dicembre. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema, tutti i giovedì dalle 14 alle 15. In diretta sugli 87.9 in modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. Sull'home page trovate Ascolta la diretta, e sempre sull'home page, colonna centrale, alla voce Trasmissioni Visionari, trovate la scaletta e le informazioni sulla trasmissione, che trovate poi anche sulla pagina Facebook di Visionari Radio Onda Rossa. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Appena avviene qualcosa relativa al cinema e al teatro all'interno del carcere di Rebibbia, ecco che Fabio Cavalli diventa il nostro interlocutore. Fabio, ben ritrovato. Oh, ciao. non è molto che manco dalla vostra no, radio. No, infatti. In questo caso sei coordinatore artistico per quanto riguarda il documentario Rebibbia 24, che sarà presentato all'interno del teatro di Rebibbia Nuovo Complesso il prossimo 20 dicembre. Fabio, ci racconti un po' tutto? Allora, guarda, io, vabbè, come sai, magari qualcuno che ascolta se ne ricorda, da una quindicina d'anni faccio teatro e cinema all'interno del carcere di Rebibbia Nuovo Complesso, e da 4-5 anni insegno anche all'università, ho un corso che parla proprio dell'approccio all'arte in carcere. Sì. E tutti gli anni porto una trentina, una quarantina di studenti dentro a fargli vedere cosa significa, non proprio la galera, perché dentro un teatro in galera si vive più che altro in un teatro, però insomma entrare in un carcere è sempre un'esperienza molto particolare. Da anno grazie a un contributo ottenuto dalla SIAE con un bando che si chiama Sellumina, in collaborazione anche con la Fondazione Cinema per Roma, abbiamo pensato con 7 di questi ragazzi che sono rimasti incantati, affascinati, turbati da questa esperienza dell'incontro col teatro dentro una prigione, abbiamo deciso che valeva la pena di raccontare le loro emozioni. Cioè non tanto raccontare le storie dei detenuti, anche se ci sono pure quelle, o raccontare lo spettacolo Hamlet di cui abbiamo parlato il mese scorso, ma quanto proprio cercare di capire loro chi sono e come sono cambiati nell'impatto con quel mondo e qual è il punto di incontro tra chi sta dentro e chi sta fuori. E nel nostro caso il punto di incontro è stato il cinema, Shakespeare, ma anche la musica. Il punto di incontro è stata la banda della Scuola Popolare di Musica di Testaccio, è stato il rock di Elvis Presley, perché dentro questo docufilm c'è tutta questa roba qui. Sì, sì. Senti Fabio, anche in base alla tua esperienza con questi alunni, qual è la prima reazione, quella più forte, e cosa avviene nell'impatto con il carcere? La prima reazione è la paura. Tutti gli anni mi scrivono gli allievi quando decidono di partecipare a questo laboratorio corso, che in parte si svolge all'università, in parte in carcere. Mi scrivono: Dio, sono preoccupato, entrare là dentro. Qualcuno addirittura rinuncia a iscriversi per la paura di entrare in un carcere. Poi il primo impatto io li preparo prima, gli provo a spiegare loro qualche cosa, provo a spiegare loro che siamo intrisi di pregiudizi sociali, culturali, che ci impediscono di capire esattamente le cose come stanno, ma per quanto io predichi, fin quando non entrano dentro e non salgono sul palcoscenico con i detenuti attori, continuano a vivere in uno stato di terrore. Poi dopo bastano 2-3 ore perché si sciolga al calore dell'arte, si scioglie la tensione, e senza dimenticare mai che hanno a che fare con persone che hanno commesso dei crimini e stanno là dentro per questa ragione, tuttavia trovano anche persone che riescono in questo momento della loro vita ad usare il dolore, la colpa, al fine di trasformare dei personaggi scritti su carta in personaggi viventi su un palcoscenico. Sì. A quel punto nascono non le amicizie, questo è ovvio, nasce un sentimento di umanità comune, un sentimento di appartenere allo stesso genere, che è quello delle persone che possono più o meno sbagliare e più o meno pagare. Sì. Da lì credo che non tornino più indietro, cioè l'esperienza li cambia profondamente, gli apre la mente, li fa essere meno pregiudizievoli verso tutto e tutti. Sì, sì. Spero che duri nel tempo. Senti Fabio, come è stato pensato, realizzato il documentario? Allora, io ho costruito una struttura generale, poi ho affidato a ciascuno dei ragazzi, a ciascuno dei detenuti, il compito di descrivere se stessi in 3 minuti. Quindi è una sceneggiatura a 25 mani. E poi abbiamo girato tutto, in parte in carcere, in parte fuori, nella vita dei ragazzi, con le più moderne tecnologie che la modernità ci dà, e cioè con gli smartphone, con gli stabilizzatori di immagine, i gimbal, la Losmo, con i droni, con le macchine subacquee, con tutto quello che può servire a creare un contrasto tra il grigio di una cella, il grigio di un cortile penitenziario e i colori meravigliosi del mondo, per avvertire lo spettatore, anche per non annoiarlo da un certo punto di vista, ma poi anche per avvertire lo spettatore che in effetti il mondo è colorato, è bellissimo. Mentre tutte le immagini che si vedono in carcere, per quanto siano colorate, non ho usato bianco e nero, tuttavia il carcere è grigio, è chiuso, è stretto, non ci sono i cieli, non ci sono le aperture, e i ragazzi mi hanno aiutato tantissimo, perché c'è chi sta al montaggio, c'è chi teneva, girava assieme a me, assieme ad altri tecnici, quindi sono stati coinvolti proprio nella realizzazione concreta del film, in tutti i comparti, dalla segreteria di edizione a tenere la macchina da presa in mano, a collaborare al montaggio, la scelta delle musiche. Penso che siano molto contenti, io spero che sia una cosa bella per loro, è stata bellissima per me, anche per noi nel nostro gruppo, speriamo che lo sia anche per lo spettatore. Ecco, a questo proposito, il 20 dicembre prossimo ci sarà la presentazione all'interno del teatro di Re Bibbia. Fabio, poi che succederà? Che tipo di fruizione sarà possibile? Ah, beh, poi dopo vediamo se piace, se interessa, se sicuramente saremo all'università, perché questi ragazzi sono tutti quanti dell'Università di Roma 3, quindi lo presenteremo in università. E poi lo faremo vedere, spero, alla festa del cinema dell'anno prossimo. Ci saranno varie occasioni, festival, non lo so. Sai, il problema è che quando tu fai una cosa non sai mai se è venuta esattamente come l'avevi immaginata. Sì. Bisogna aspettare, vedere. Siamo ancora al montaggio, figurati. Fino all'ultimo minuto faremo ritocchi su ritocchi. Poi come andrà, come tutte le opere, no? Bene, bene. Allora Fabio, ricordiamo questo appuntamento con Re Bibbia 24 il prossimo 20 dicembre, che è mercoledì della prossima settimana, all'interno del teatro di Re Bibbia Nuovo Complesso. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie, crepi il lupo e alla prossima. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Fabio Cavalli, coordinatore artistico del documentario Re Bibbia 24. Silvia Bellotti, regista del documentario Aperti al pubblico, che sarà presentato alla Casa del Cinema qui a Roma il prossimo mercoledì 20 dicembre. Silvia, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per l'invito. Aperti al pubblico, un documentario che ha ottenuto anche un riconoscimento all'appena concluso Festival dei Popoli a Firenze. Di cosa si parla, Silvia? Si parla di burocrati. I protagonisti del film sono gli impiegati di un ufficio pubblico di Napoli che lavorano per l'Istituto Autonomo per le Case Popolari, e per quasi 2 anni siamo stati nell'ufficio insieme a loro e li abbiamo filmati mentre alle prese con i colloqui con gli utenti che abitano nelle case popolari di Napoli e provincia, quindi un territorio molto vasto. Sono persone, diciamo, io ho cercato l'incontro tra queste persone, tra gli utenti e l'istituzione, e filmando in questo periodo mi sono accorta che nel mezzo ci sono gli impiegati che devono riuscire a incastrare le vite complesse, caotiche, a volte molto spesso disgraziate degli abitanti dentro gli scaffali ordinati della legge, cioè tutto questa umanità variegata deve essere ricondotta a qualcosa di ordinato e prestabilito. Qual è stata la spinta iniziale? La spinta iniziale, da un punto di vista creativo, sono state le mie disavventure burocratiche, nel senso che per cambiare l'occasione, insomma, il pensiero, io ho dovuto a un certo punto spostare la mia residenza a Palermo perché ho vissuto anche lì, e mi sono resa conto all'improvviso che tutta l'organizzazione della mia vita in pratica non rientrava nei parametri della legalità, della casa in cui abitavo e così via, e per cui ho cominciato a frequentare l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, e lì mi sono resa conto di un mondo, cioè quanto un ufficio pubblico possa raccogliere le storie personali di ognuno e far incontrare l'altro e soprattutto confrontarsi con lo Stato, cioè rendersi conto di come siamo in un meccanismo molto grande, di ciò che ci è dovuto e di ciò che dobbiamo noi alla comunità, alla collettività. Per cui mi affascina il rapporto tra il cittadino e lo Stato. In precedenza dopo questa esperienza di Palermo mi sono trasferita a Napoli, si è presentata l'occasione produttiva di produrre questo film, perché ho partecipato a un atelier di cinema del Reale diretto da Leonardo Di Costanzo, e che si chiama Film Up,

molte proiezioni in tutta Italia e anche all'estero. Bene. Ci lasci in chiusura tutti i riferimenti internet? Ci potete trovare su Facebook alla pagina Aperti al Pubblico, e con la chiocciolina ci trovate digitando Aperti al Pubblico, e anche altre informazioni si trovano sul sito di Filmapp, sul sito dell'Arcimovie, comunque diciamo da Facebook si risale a tutto. Bene. Silvia, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, buon proseguimento. Ciao, ciao, ciao. Silvia Bellotti, regista del documentario Aperti al Pubblico, che sarà presentato qui a Roma, alla Casa del Cinema, mercoledì 20 dicembre prossimi. Sergio Sozzo per parlare della proiezione del film The Happiest Day in the Life of Holly Maki, che sarà presentato qui a Roma all'interno di Sentieri Selvaggi stasera, oggi giovedì 14 dicembre. Sergio, ben ritrovato su queste frequenze. Ciao, ciao Federico, buon pomeriggio a tutti, è sempre un piacere essere con voi su Radio Onda Rossa. Bene, allora Sergio, si tratta di un film inserito però in una iniziativa più ampia che va a cercare film all'interno dei vari festival in cui voi siete presenti e li avete visionati, li avete amati, per riproporli ad un pubblico vicino a voi, ma non solo. Sì, esattamente, ma questa è una pratica che, come dire, nel privato, no, accomuna magari molti di noi che frequentano i festival o a cui capita di vedere i film in una maniera diversa da quella abituale della sala, della distribuzione italiana. Allora abbiamo pensato, ma questo già da un po', insomma, perché non aprire questa possibilità di rivedere le cose che poi invece i canali abituali hanno dimenticato o di cui non si sono accorte o che magari pensavano non potessero avere un pubblico, ecco, non aprirla a tutti i nostri allievi, studenti, ai soci dell'associazione culturale. Sono incontri aperti al pubblico, basta compilare un piccolo formulario di iscrizione alla nostra associazione culturale. Perciò ad esempio l'esempio di oggi è un esempio lampante: il film ha vinto un Certain Regard, quindi un film premiato anche a Cannes del 2016, e di fatto il cinema finlandese, magari, ecco, soprattutto Kaurismäki, però non è un cinema che il nostro pubblico cinefilo da cui il nostro pubblico cinefilo è totalmente estraneo. Poi è un film sulla box, è un film tratto da una storia vera, insomma le possibilità per trovargli un pubblico anche seppur di nicchia c'erano. Eppure è un film scomparso da Cannes del 2016, di fatto se ne sono perse le tracce, perciò ci sembrava giusto poterlo e anche, insomma, poterlo riproporre questa sera per tutti, insomma, per chi è a Roma fondamentalmente. Sì. E così come abbiamo fatto con Juho Kuusmanen, lo faremo per tutta la stagione. Sicuramente adesso ci fermiamo per Natale, però fino a maggio recupereremo titoli sparsi in giro per i festival. Come sai, i nostri frequentatori sono particolarmente affezionati al cinema orientale, quindi ci sarà anche quello, li possiamo rassicurare, però ecco, quest'anno magari ampliamo un po', come ad esempio facciamo questa sera. Senti, si tratterà di un giorno stabilito, perché questa è la seconda proiezione, sempre di giovedì. Sarà il giovedì il giorno dedicato? Sì, okay. Sì. Il giovedì. Allora, salvo modifiche dovute alla presenza o meno di un ospite, la serata aperta al pubblico del nostro calendario è il giovedì. Appunto, magari cercheremo di dividere in una sorta di mini cicli, per cui oltre appunto a questo delle scoperte da festival avremo magari dei recuperi di film storici, anche quelli scomparsi dalle distribuzioni un video, dai portali di streaming e così via, e poi avremo i nostri incontri con la cadenza, probabilmente, insomma, cerchiamo di avere un incontro al mese. Ecco, nel caso degli incontri a volte magari ci si può spostare al venerdì, però viene sempre segnalato sulla nostra newsletter, sulla nostra pagina Facebook, sui nostri siti. Di fatto restiamo però al giovedì come giorno deputato. Ok, senti, lo raccontiamo brevemente a chi ci sta ascoltando? Sì, beh, la storia è molto divertente, la storia vera di questo pugile Holly Maki, che di fatto aveva pochissimi incontri professionistici e si ritrova per un'invenzione pubblicitaria, per una sorta di grande raggiro messo in piedi da un impresario così da quattro soldi a sfidare il campione dei pesi massimi, David Moore, e quindi la sua quotidianità, la quotidianità del suo piccolo paese che è Kokkola in Finlandia, viene sconvolta dall'arrivo delle telecamere, dei giornalisti e dall'arrivo appunto del grande campione americano che andò fino in Finlandia per disputare lo scontro. Il film ha questa ironia, appunto i fan di Kaurismäki la ritroveranno, basata su un surreale minimale, mettiamola sì, così, delle sì, piccole cose, ma anche un grande omaggio al cinema pugilistico, al cinema di boxe in bianco e nero, e recupera tutti i momenti cardine delle storie di pugilato, delle storie da ring, l'allenamento, l'innamoramento del loser, il grande avversario temibile, ma tutto questo appunto sempre con il sorriso e con quella modalità stralunata. È un film un po' più classico in confronto all'esordio di Kosmanen, che era Painting Sellers, che in Italia vedemmo a Torino nella sezione di Massimo Causo, che era un film più punk, più cattivo. Questo è, insomma, ritrova delle formule molto classiche dal punto di vista pugilistico, però per ritornarci su con l'ironia. Bene. Allora Sergio, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti per saperne di più? Sì, noi siamo in via Carlo Botta 19, iniziamo alle 20:30, ci sarà una piccola introduzione per inquadrare appunto sia Kosmanen che il film che andiamo a vedere. Tutte le altre informazioni su Facebook basta cercare Sentieri Selvaggi o Scuola di Cinema Sentieri Selvaggi, allo stesso modo sentieriselvaggi.it, dove c'è anche la recensione da Cannes e un piccolo profilo su Kosmanen dai tempi appunto di Torino, del suo film d'esordio di Painting Sellers. Benissimo, Sergio, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie, buon lavoro, buon proseguimento. Ciao. Sergio Sozzo sulla proiezione del film The Happiest Day in the Life of Olli Mäki a Sentieri Selvaggi qui a Roma oggi, giovedì 14 dicembre. Jacopo Quadri, regista del documentario Lorello e Brunello. Jacopo, ben ritrovato su queste frequenze. Ciao, salve, ciao. Allora, come ti dicevo, non ho avuto modo di vederlo, però insomma è stato premiato a un festival. Quale festival intanto? A Torino Film Festival. Torino Film Festival, perché oggi siamo in vena di documentari e film premiati nei festival che ci sono stati in questo intenso periodo invernale. Jacopo, lo raccontiamo brevemente a chi ci sta ascoltando? Sì, ci provo. Allora, è un film semplice, è un documentario su due gemelli in Toscana, in Maremma, due allevatori e agricoltori che vivono da soli in un podere, e sono, brevemente per dire di loro, hanno 50 anni, non hanno genitori, non hanno figli e mandano avanti un podere a metà appunto tra la modernità e il passato, cioè hanno i trattori, hanno i mezzi tecnici, però sono soli in un territorio molto molto vasto, e hanno come vicini dei proprietari importanti che sono gli Antinori, e che diciamo si stanno espandendo e potrebbe essere il futuro della terra di Lorello e Brunello Biondi, potrebbe essere invece di essere presi insomma dagli Antinori, cioè dai vicini potenti. È un po' è un po' emblematico di un mondo contadino che deve fare i conti in qualche modo con le multinazionali, con la globalizzazione. E il film è, però adesso c'è un aspetto di questo film, è un aspetto ecco appunto più sociale, più economico, ma in realtà è un film proprio su delle persone che lavorano, che sì, sono loro e alcuni vicini che in qualche modo intervengono nel film. È una signora di 85 anni, Ultimina, che è una loro vicina di podere,

di andartene anche ai tropici, ma non si può fare, perché hai quasi una missione di vita a cui non puoi rinunciare, che sì. È lavorare la tua terra, sì, sì. E badare i tuoi animali, sì. È molto semplice, però questo in qualche modo non potersi chiedere e non potersi lamentare è insomma qualcosa di molto interessante, ecco. Jacopo, è prevista nel prossimo futuro una sorta di programmazione? Sì, allora, beh, sì, stiamo capendo chi distribuirà questo film. Adesso o saremo noi stessi, cioè noi come Ubulibri con Vivo Film, ma è più probabile invece che una piccola distribuzione interverrà, e comunque il nostro obiettivo è insomma di farlo vedere, quindi credo che magari ci sentiremo più avanti quando sapremo in quali cinema uscirà e in che modo questo film uscirà. Però siccome Torino ha avuto veramente un grande, non solo successo diciamo di giuria ma proprio di pubblico, è un film appunto che nella sua semplicità interessa molto, può interessare molto e può anche molto far parlare, quindi io credo che troveremo il modo insomma di farlo vedere. Allora ci diamo appuntamento in vista dell'uscita. Va bene. Un abbraccio in bocca al lupo. Ciao Jacopo. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao. Jacopo Quadri, regista del documentario Lorello e Brunello. Demetrio Giacomelli, regista del documentario L'estinzione rende liberi. Demetrio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao. Ciao. Una piccola considerazione, cioè L'estinzione rende liberi è più un film di fantascienza, poi ha dei tratti che sono diciamo vicini al mockumentary, però ecco, l'idea era quella più di cercare di fare un film di fantascienza. Ok, allora lo chiameremo film da adesso in poi. Allora Demetrio, il titolo è subito accattivante, raccontaci un po' di cosa si tratta. L'estinzione rende liberi è, come dicevo, un film di fantascienza autarchica, non tanto per scelta ma quanto perché il budget era quello, ed è un film che in qualche modo tratta diviso in varie parti tratta diciamo del tema del fine della storia, ecco. E in tutte le sue declinazioni, che da diciamo filosoficamente da Hegel in poi c'è stato diciamo nel dibattito filosofico, che poi ha trovato in realtà anche spazio nell'immaginario post-apocalittico, e quindi diciamo più che altro è una sorta di pamphlet, non ha una vera e propria trama, è più una struttura che si basa su questo tipo di riflessione. Un tipo di riflessione che ha radici novecentesche. Sì, sì, sicuramente. Infatti è un film più sull'immaginario e più anche sull'immaginario che secondo me ci stiamo lasciando alle spalle, che è l'immaginario legato comunque all'uomo che vede come proprio orizzonte l'orizzonte storico, mm-hmm. Che secondo me invece stiamo andando verso un tempo dove comunque il rapporto uomo storia non è quello che è stato fino all'Ottocento, e che poi ha avuto secondo me un nella Seconda Guerra Mondiale e nel periodo successivo una frattura, ecco. Diciamo che non sono l'unico a dirlo. Senti Demetrio, da quali allora quale considerazione sei partito e com'è venuta l'idea, su cosa hai voluto lavorare? Ma l'idea è stata, in realtà è partito da due considerazioni, comunque da due intuizioni. Da una parte era che, perché nel lavoro c'è una parte all'inizio che tratta di Auschwitz, e che diciamo sono dell'86 e oggi ho 31 anni, Auschwitz è come un racconto di fantascienza, e dall'altra la seconda parte invece, perché il film è diviso in due parti, dall'altra invece era questa visione di questo zombie che si mangia da solo. Ecco, da queste due cose ho costruito il lavoro, e importante è stato anche il titolo, L'estinzione rende liberi, che, come dire, ho cercato di perché poi molta parte del film tratta in qualche modo di temi biopolitici, e l'idea era proprio quella di trattare la fine dell'umanità dal punto di vista della specie e non da un punto di vista magari più escatologico, più spirituale, ecco. E quindi poi il film è costruito di vari momenti. La parte di Auschwitz in realtà è costruita su dei filmati che ho trovato su YouTube, di praticamente su questa piattaforma che si chiama Minecraft, che è un gioco dove tu puoi costruire i tuoi stessi scenari, i tuoi stessi livelli, e ho trovato che molte persone di varie parti del mondo costruivano queste Auschwitz perfettamente funzionanti, e dove all'interno mettevano questi avatar, diciamo, sembianze di ebrei o comunque di internati, e praticamente cioè, queste persone giocavano a dimostrare il funzionamento del loro stesso livello che costruivano. E questa è sinceramente questa idea di queste migliaia di Auschwitz virtuali continuamente in funzione, perché poi questi livelli funzionano al di là che tu come visitatore o come giocatore vai nel livello, mi ha dato un'idea abbastanza fredda e anche agghiacciante, ecco. E da lì sono partito per creare la prima parte del lavoro, mentre la seconda era, diciamo, è più ispirata diciamo, a questa continua presenza dello zombie, soprattutto adesso sta un po' scemando, ma fino a qualche anno fa, con Walking Dead, altre serie e altri film, continua visione dello zombie, mi ha dato l'idea invece di questo zombie che in qualche modo esce dalla sua parte e diventa l'immagine che l'uomo ha lasciato dietro a se stesso, e quindi è come se l'uomo avesse abbandonato l'immagine di se stesso, e questa immagine vaga fino ad autoannientarsi. Ecco, proprio a questo proposito ti chiedo se, secondo il tuo punto di vista, l'umanità ha esaurito il suo percorso storico. Ma io credo, in realtà, poi credo che l'immaginario e il rapporto con l'immagine sia cambiato, perché credo più che altro che proprio l'immagine a cui noi facevamo riferimento, cioè, adesso non vorrei veramente, perché io non sono un filosofo, però quella funzione in qualche modo di costruzione continua dell'umanità, perché in qualche modo l'uomo non è un dato di fatto, è qualcosa che si costruisce nella realtà, nella relazione con gli altri. Credo che in parte quello ce lo stiamo lasciando dietro. Infatti, vabbè, adesso si parla anche di post-umano, di post, secondo me non è neanche qui quello di andare sul posto o meno, e che sicuramente quel rapporto, quell'idea di un uomo che vive in una storia, di una storia con un percorso, una linearità che faceva anche parte di determinate ideologie o di determinati correnti di pensiero, secondo me quell'aspetto lì si è spezzato. Quindi non vuol dire che non esisterà più l'uomo in quanto veramente specie, in quanto animale, ma forse non esisterà più l'uomo in quanto quello che finora noi abbiamo considerato essere un essere umano. Ok. Senti, Demetrio, e questo titolo? Il titolo è, come molta parte del film, è anche una provocazione. Nel senso che, leggendo vari libri che proprio trattano della fine della storia, c'è sempre questa come dire, questa considerazione molto lucida del nostro stato attuale di esseri umani, e però non c'è mai, come dire, una via d'uscita, o comunque anche le vie d'uscita sono sempre non sono mai radicali, ecco. E quindi l'estinzione rende liberi è anche un titolo provocatorio, nel senso anche un tentativo di rilanciare. Non abbiamo nessuna, non c'è nessuna ragione, ecco, per, almeno per questo quello che dico, penso io, non c'è nessuna ragione o non c'è nessuno che ci costringa a vivere. E se secondo molte riflessioni siamo alla fine della storia, e questa è una delle epoche più negative o più annichilenti che l'umanità diciamo ha vissuto, niente ci nega di decidere come specie di estinguerci, ma sta nel lavoro che in qualche modo è veramente un pamphlet, è veramente anche in certi casi facinoroso, comunque sacrifica anche molti contenuti all'efficacia, cioè è fatto veramente come quelle provocazioni intellettuali che dall'Ottocento all'inizio del Novecento avevano queste forme molto provocatorie, molto violente. Quindi il titolo è una parafrasi di una scritta atroce che era all'interno dei campi di concentramento. È anche un titolo scelto, come detto, tantissimo accattivante e provocatorio. Allora, un riconoscimento al Filmmaker Film Festival, e per quanto riguarda invece una sorta di distribuzione, Demetrio? Beh, diciamo che è difficile, nel senso che poi è un film autoprodotto totalmente, e sicuramente come questa tipologia di lavori sta molto a chi li fa anche la distribuzione, quindi cercare cinema, cercare festival che siano interessati alla proiezione di un lavoro di questo tipo, che comunque anche ha una durata 50 minuti che è atipica, e anche visivamente è particolare, ecco. Spesso sicuramente i luoghi dove proiettarlo si trovano, ecco, però diciamo uno deve cercarsi veramente la propria strada. Bene. Sia in Italia che fuori dall'Italia, ecco. E allora, in chiusura, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? C'è una pagina Facebook che si chiama L'estinzione rende liberi il film, dove si possono vedere, diciamo, i prossimi luoghi e le prossime date dove il film sarà proiettato. Bene. Allora, un in bocca al lupo e a risentirci presto, Demetrio. Crepi, grazie. Ciao, ciao, ciao. Demetrio Giacomelli, regista del film L'estinzione rende liberi. Allora, recuperiamo il collegamento con Patrizia Masala, che ci stava raccontando un po' l'origine di questo festival che è arrivato alla seconda edizione. Eccoci, Patrizia. Allora, non c'è un'origine particolare, ci è venuta l'idea di proporre a un pubblico nella prima edizione vasto, nel senso che la prima edizione è stata una rassegna itinerante in giro per tutta la Sardegna, e mentre invece con la seconda stiamo concentrando il progetto solamente nella città di Cagliari e nell'area vasta. Per cui abbiamo strutturato la rassegna in 5 sezioni, con l'esordio dell'horror come prima sezione proprio domenica 17, e abbinando ad ogni sessione la sonorizzazione dal vivo di un film che è stato selezionato. Quindi partiamo con l'horror il 17, sì, e proseguiamo poi con gli appuntamenti successivi con la sezione il cinema sul campo di battaglia, il cinema di guerra, quindi poi la letteratura nel cinema muto, l'eros, l'erotismo, quindi gli scandalosi vecchi tempi, per chiudere con immagini delle religioni. Ad ogni sezione parteciperà un docente o un critico cinematografico e comunque un esperto di cinema muto che introdurrà questa sezione al pubblico, e appunto in ogni serata abbineremo per quella sezione la sonorizzazione dal vivo. Chiuderemo poi il 17 di febbraio con un evento speciale che sarà la sonorizzazione del film Lo studente di Praga, ritenuto come primo film della storia del cinema d'avanguardia, e sarà musicato dal vivo dalla Silvia Del Fiore al pianoforte e Andrea Morelli al sax. Allora, riassumendo, quanti sono i titoli in programmazione? Allora, riassumendo, abbiamo 15 serate di proiezione più l'evento speciale. Okay. Per ogni sezione dedicheremo 3 serate di proiezioni dedicate appunto alla sezione specifica. Allora, visto che si parte dal 17 dicembre, si arriva al 17 di febbraio, volevo sapere se ci sono giorni della settimana specifici o si svolgerà tutti i giorni? Non ho capito. Il festival si svolgerà tutti i giorni di questo mese, praticamente dal 17 al 17, o ci sono? No. Okay. Allora, praticamente saranno 2 appuntamenti settimanali. Okay, quindi partiamo domenica 17, poi il prossimo sarà il 19, il 21, okay. Poi il 28, ecco, apriremo l'altra sezione dedicata al cinema sul campo di battaglia. Poi proseguiremo il 9 di gennaio, il 12, il 16, il 19, il 23, il 26, il 30, il 2, il 6 di febbraio, il 9 e il 13 chiuderemo. Ok. Senti, per quanto riguarda gli ospiti, avete qualche segnalazione in particolare? Certo, abbiamo Angel Quintana dell'Università di Girona che arriva dalla Spagna, che aprirà domenica 17. Poi avremo Anton Giulio Mancino il 28 dicembre dell'Università di Macerata per il cinema di guerra. Il professor Luciano Marrocco dell'Università di Cagliari, che è uno storico, il 16 di gennaio. Poi avremo Giorgia Bruni, che è un critico cinematografico che ci introdurrà al genere erotico, e chiuderemo con Roberto Chiesi della Cineteca di Bologna il 9 di febbraio con la sessione Immagini della religione. Senti, si tratta di copie restaurate in digitale, la prima domanda, e la seconda... Sì, sì, vai. Allora, non tutti sono restaurati, è un grande apporto a questa rassegna, la sta dando la Cineteca di Bologna, che sarà nostro partner per tutta la rassegna. Ok, ecco, e considerato allora che non sono tutti restaurati, volevo sapere anche se ci saranno proposte che vanno considerate in qualche modo un evento, in quanto magari si tratta di una prima proiezione pubblica. Beh, intanto Lo studente di Praga, la copia che abbiamo noi, è completamente muta, quindi sarà sonorizzata per la prima volta con musiche originali. Okay. Non mi risulta che ci sia, per esempio, in giro un supporto con la sonorizzazione. Okay. Per cui, ecco perché viene chiamato evento speciale. Certo. È molto interessante invece il pacchetto che offriremo come visione per il genere erotico, perché sono dei piccoli cortometraggi, dei brevissimi cortometraggi che sono conservati nel Film Archiv dell'Austria. Okay. E quindi addirittura a questi cortometraggi dedicheremo 2 serate. perché sono talmente tanti che certo. E sono veramente splendidi. Sì, le musicazioni dal vivo saranno opera di più artisti, più ensemble? Certo, sì, sono tutti collaboratori che già come associazione utilizziamo, o quasi tutti, per un festival jazz che organizziamo ormai da 5 anni. Uno dei collaboratori fissi è proprio Andrea Morelli, che è un sassofonista ed è conosciuto a livello regionale ma anche nazionale. Se vuoi io te li cito tutti, l'elenco è abbastanza lungo. Andrea Morelli, Massimo Spano, poi Antonio Farris, Gio Morgia, Alessandro Garau, Massimo Ferra, Corrado Aragoni, Andrea Congia, aspetta un attimo che mi devo ricordare, Marco Pittau e Stefano Di Carlo. Sono veramente dei musicisti talentuosi che si adattano moltissimo ad ogni genere musicale, prevalentemente jazz. Bene, bene. Allora Patrizia, in chiusura ci dai tutti i riferimenti internet per seguire la programmazione? Allora, sì, tutto il programma è consultabile su www.alambicco.org, sul nostro gruppo Facebook L'Alambicco e la Macchina Cinema Fitch, oppure se qualcuno vuole avere più indicazioni può anche utilizzare i nostri numeri, i recapiti telefonici. Benissimo. Patrizia, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie a te Federico e grazie agli ascoltatori. Ciao. Alla prossima, ciao. Patrizia Masa, la direttrice della seconda edizione di Storie di Volti e Silenzi, la magia del cinema muto, a Cagliari dal 17 dicembre al 13 febbraio e ad Elmas il 17 febbraio. E questo è tutto per Visionari di questa settimana. Torniamo in diretta giovedì prossimo sugli 87.9 modulazione di frequenza o in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. sull'home page c'è Ascolta la diretta. Sempre sull'home page trovate nella colonna centrale alla voce trasmissioni Visionari la scaletta di oggi e tutte le informazioni sulla trasmissione, come anche sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.